Real Madrid-Roma è anche la sfida tra Carbonara e Paella. Voi che cosa preferite? Pardo, è vietato rispondere tutte e due. Pardo. No, io adesso dico una cosa per la quale poi mi toglieranno la cittadinanza che non ho più. Fra l'altro, pur essendo romano, preferisco la paella alla carbonara. Però se parliamo di cacio e pepe o amatriciana, insomma, il livello sale, no? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amici miei, prendete subito in mano il telefono perché oggi non ci facciamo mancare nulla, eh? Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binda in redazione. Non ci facciamo mancare nulla perché parleremo di ultra in Senato, parleremo di nuovo di Higuain, parleremo di simulazioni e dintorni e malcostumi assortiti. Parleremo di tutto questo, ma anche ovviamente di sport, di calcio. Con i dovuti limiti, perché oggi questi sono gli argomenti all'ordine del giorno. Ovviamente parleremo di una Champions League che, insomma, è molto più incerta di quanto ci si potesse immaginare dopo che il Real Madrid ieri è stato pettinato sul campo del Wolfsburg e il Paris Saint-Germain, per cui dichiaro il mio tifo per Ibrahimovic, ma ce n'è anche per lui, ce n'è anche per Ibra, perché ci sono delle accuse che arrivano dalla Svezia che poi vi racconto. Ebbene, il Paris Saint-Germain ha pareggiato 2-2 in casa con il Manchester City. Dunque, tante sorprese. Dopo questa partita pareggiata dal Paris Saint-Germain, Ibrahimovic male, peraltro, ieri sera, molto male, ha parlato Thiago Motta. Potevamo fare un po' meglio stasera. Abbiamo fatto una buona partita, però non lo sufficiente per vincere un Manchester City. E così alla fine, da quello che mi sembra, quando finisce la partita, perché poi quando la guardi magari puoi cambiare opinione, però mi sembra che non abbiamo controllato e abbiamo fatto il gioco che siamo abituati a farlo. È quello che mi sembra un po' che ci è mancato questa sera. Dunque così Thiago Motta, poi caso Higuain. Abbiamo parlato tantissimo ieri, lo faremo anche nei prossimi giorni di sfuggita. Oggi, ma ne ha parlato anche Raffaele Cantone, magistrato napoletano, come ben sapete, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È diventato molto più difficile. Sì, lei è un tifoso accanito? No, io sono non accanito, ma sono molto tifoso. Molto tifoso, senta, anch'io della Juve però. Senta. Questo non mi fa piacere. No. Senta. Anche perché ha avuto un altro regalo, la squalifica di Higuain. Un regalo, non era giusta, lei non l'avrebbe squalificato? Io l'avrei squalificato perché Higuain è un grande campione e deve comportarsi da grande campione. Io credo che sia fra l'altro un esempio positivo. Cioè lei dice positivo. Che quattro giornate sono troppe. Due. Vabbè, allora facciamo fare a Cantone il giudice sportivo, questa è la mia proposta. 800-24-0024, in tanti vogliono in questi giorni la testa di Tosel. Poi, sempre su questo caso, è arrivata immancabile, ma secondo voi fa notizia, l'interrogazione parlamentare sulla squalifica di Higuain del senatore Langella, che non so se ieri fosse presente all'incontro con i capi ultra. Intanto annunciato anche un flash mob per domani in piazza del Plebiscito a Napoli, una pagnolada domenica allo stadio contro il Verona, ma è solo l'inizio di una serie di divertenti e simpatiche iniziative. A proposito di divertenti e simpatiche iniziative, io vi convoco domani di persona dalle 6:30 alle 8, non di mattina, dalle 18:30 alle 20, per uno speciale live di Tutti Convocati. Un luogo bellissimo, perché è praticamente l'Expo della radio, Radio International Radio City, a Milano, Piazza Gae Aulenti. Ho detto Gae, Gaia o Gay o qualcos'altro, ho detto Gae Aulenti. Vi aspettiamo tutti, io e Pardo presenti, avremo un sacco di ospiti che poi pian piano vi andrò a svelare. Non ci sarà nessun giocatore del Milan perché sono tutti in ritiro. Ma qualcuno parla, come ha fatto ieri Montolivo. La squadra è sempre stata con Sinisa Mihajlovic. Io il mister lo conosco bene, forse meglio di altri, so che perfettamente che è un allenatore che è sotto pressione dà il meglio di sé. quindi chiaramente tutti insieme cercheremo di uscire da questo momento non facile. La partita di sabato è una partita complicata, ma credo che vedremo in campo una squadra diversa. Non resta che aspettare qualche giorno per capire se vedremo in campo un Milan diverso rispetto a quello depresso e deprimente delle ultime esibizioni. Dunque, altra questione all'ordine del giorno. Mentre, a proposito di allenatori, Mihajlovic in bilico, Berlusconi lo vorrebbe cacciare da un giorno all'altro, da un momento all'altro, indice pranzi e summit con Grandi Vecchi, con Gagliani, con Arrigo Sacchi. Ma c'è un altro presidente che incredibilmente ha avviato contatti con un nuovo allenatore. Indovinate chi è? Esatto, Zamparini, perché Zamparini pare sia in trattative avviate di nuovo con Ballardini in caso di sconfitta del Palermo di Novellino nel prossimo weekend. Chi cerca allenatori? Cerca allenatori anche il presidente Tavecchio, che insomma sembra brancolare un po' nel buio, nonostante spenda fiducia e citi un famoso detto: morto un papa, se ne fa un altro. Abbiamo ottenuto la qualificazione all'europeo, abbiamo fatto un percorso che un percorso ancora dovrà essere concluso a giugno, ma quello che volevo dirvi è che il contratto è stato rispettato. Noi siamo contenti di quello che ha fatto Conte, però dico che quando muore un papa se ne fa sempre un altro. Eh sì, muore un papa, se ne va sempre un altro. Intanto aspettiamo Pardo subito dopo il traffico. 800 24 00 24, il numero verde, e ci sentiamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Vabbè, caro ascoltatore che scrive un WhatsApp, secondo me Papa Francesco si sta grattando, non è elegantissimo. C'è questo messaggio di Luca da Bologna: 349-238-6666. Andare a trattare con lo Stato per il mondo ultra è una sconfitta o un passo avanti per il mondo ultra? E per lo Stato, domanda Luca da Bologna, lo chiedo anche a voi. 800-24-0024. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, tu? Bene, pronto per domani sera 18:30 20 International Radio City Milano, Piazza Gaia Aulenti. Saremo noi, ci saranno un sacco di ospiti per questo live di tutti convocati. Allora, l'indignazione, Pierre, è gratis. Spesso ne facciamo un uso anche eccessivo, anche troppo ampio. Però ti dico la verità, in questo caso no. Quando leggo che i capi ultra vengono ricevuti nel cuore dello Stato italiano in Senato, non, a me non è sembrata una grande idea. No, dal punto di vista dell'immagine sicuramente no. Io sono, lo sai come la penso, io sono dell'idea che comunque si debba coinvolgere tutti, e quindi secondo me anche quella parte, diciamo, collaborativa del mondo ultra che deve essere responsabilizzata e che deve capire che lo stadio non è un posto dove possono esserci regole diverse dal resto. Uh-huh. E quindi chi sbaglia deve pagare certo, in maniera pesante, però secondo me un contributo diciamo costruttivo, perché no? Il problema è che magari tutto questo è avvenuto nel cuore dello quindi... Stato italiano. Abbiamo in linea Paolo Cento, esponente del SEL ed ex deputato, che era presente ieri. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Siamo amici, ma le dico subito che l'idea a me non è piaciuta, perché vedere sfilare gli ultra, parliamo del famoso Boccia, che era qualcuno ha scritto il capitano di quella squadra, ma magari ce n'erano altri. Non ci è piaciuta tantissimo l'idea, almeno dal punto di vista dell'immagine, vederli sfilare lì. Proviamo a spiegarla. Intanto non è stata una sfilata. Due avvocati, in particolare l'avvocato Lorenzo Contucci, e chiedono ai gruppi parlamentari del Senato, trasversalmente da destra a sinistra, di poter presentare con una delegazione di tifoserie provenienti da tutta Italia un progetto di legge. Quindi parliamo di una cosa che dovrebbe essere valorizzata positivamente, cioè, se usiamo questo termine, gli ultras costruiscono con i loro avvocati un progetto di legge, e dove lo devono presentare se non al Parlamento? Però io mi domando la legittimazione che hanno dal punto di vista istituzionale questi per presentarsi comunque in Parlamento un disegno di legge, e poi se nel disegno di legge scrivono no alle barriere nelle curve, divieto di petardi, fumogeni e striscioni non autorizzati, No, alla tessera del tifoso, no a multa che cambia posto allo stadio, cioè vogliono fare quello che vogliono, una legge per fare quello che vogliono. Intanto io credo che bisogna spiegare, anche se non è semplice, all'opinione pubblica che loro chiedono proprio di essere trattati come cittadini uguali agli altri. E ieri una delle cose, secondo me, positive che hanno detto è: se io commetto un reato, devo pagare per il reato che commetto, come accade fuori dallo stadio a qualsiasi cittadino, o come dovrebbe accadere, poi sappiamo che non sempre purtroppo è così. E io credo che dobbiamo ristabilire, per le manifestazioni sportive, non solo gli stadi, c'erano anche tifoserie di basket, il fatto che io sono responsabile delle mie azioni e se faccio un reato pago per quello, non posso avere delle pene che sono aggiuntive. Banalizzo, io sto davanti a un bar fuori dalla radio dove ho finito la trasmissione adesso, se io do uno schiaffo a una persona, viene giustamente un carabiniere, mi denuncia, mi prende per certamente. Se io lo faccio fuori dallo stadio, lo stesso schiaffo, la stessa intensità, lo stesso episodio, io mi prendo probabilmente qualche giorno di arresto, la denuncia e il DASPO, non entro allo stadio per i prossimi 3, massimo 5 anni, quindi c'è già un trattamento di disparità. Allora io credo che noi dovremmo ritornare a ragionare se tutte queste misure che sono state prese negli ultimi 15 anni sulla violenza negli stadi, che va combattuta senza se e senza ma, sono state utili a ridurre il fenomeno e a riportare le famiglie negli stadi. Io so solo che quando vado allo stadio mio figlio di 8 anni viene perquisito dalle forze dell'ordine. Certo, però io trovo che sia molto più io trovo che sia molto meno pericoloso andare allo stadio oggi di quanto non lo fosse negli anni 80, 90, eccetera. Lei lo sa benissimo. È vero. Perché certo sono vuoti, ma non per la violenza, piuttosto secondo me c'è gente che fa degli affari in una parte di territorio dello Stato, affari economici e delinquenziali in una parte del territorio dello Stato che non dovrebbe competere loro, almeno dal punto di vista della legittimazione, non è quello il loro ufficio. E questo a me sembra che chiedano. Pier? No, questo è il tema. No, io voglio cogliere l'aspetto positivo. Io, sai, che per cultura sono abbastanza progressista e credo sempre che poi alla fine le cose non è che le possiamo cambiare in un giorno. Quindi se ci sono dei problemi e se ci sono dei protagonisti di quel tipo di mondo, con quel tipo di mondo ci si può sedere in maniera costruttiva. Mi sembra che comunque nella proposta ci siano degli elementi costruttivi. Sull'aspetto simbolico sono d'accordo con Carlo, però insomma, nel senso che comunque poi alla fine questo è un tema simbolico, ovviamente, però siccome anche qui non dobbiamo essere ipocriti, no? La proposta e la mano al dialogo viene dalle tifoserie. Era abbastanza evidente che ora si parla del caso del Boccia, ma potremmo citarne tanti altri. È evidente che dentro quella proposta, chi ha lavorato a quella proposta, ci sono persone che nel corso di questi anni, alcuni di loro hanno subito anche gli effetti e la scure della legge, però erano lì in piena legittimità. Anche qui non voglio sviare. Però in un paese in cui il figlio di un noto mafioso va e viene intervistato in a Bruno Vespa, ieri sera. Fatemi dire che veramente è un paese dove parliamo veramente degli ultimi e me delle cose principali. E non sono io che userò l'argomento che il Parlamento è pieno di inquisiti, perché voglio bene al Parlamento. Comunque ci stava. Facciamo il confronto. No, io penso c'era il servizio d'ordine, no? Nelle manifestazioni, quello che abbiamo imparato noi magari un po' più giovani, dal 68 in poi, negli anni 70, c'è sempre stato il servizio d'ordine, cioè c'è sempre stato comunque all'interno di chi manifestava un gruppo di persone che si occupava dei comportamenti. Io credo che andava a parlare con la polizia. Io ti dico, una dinamica di coinvolgimento per creare degli stadi che siano un punto di compromesso fra quella che è la tradizione italiana e determinati meccanismi di sicurezza, per cui possa diventare di più una dimensione per famiglie, secondo me non è sbagliata. Quindi io non voglio essere disfattista su questo tipo di proposta, a patto però che veramente ci sia la voglia di capire che qualsiasi tipo di reato poi deve essere punito, perché è vero quello che diceva sacrosanto, perché dovrebbe essere logica, cioè dovrebbe essere anche vero, però a volte il contrario, cioè è vero che negli stadi, soprattutto negli stadi di antica concezione, entra di tutto e probabilmente invece in una piazza italiana se c'hai un fumogeno, una bomba carta, magari qualcosa ti fanno ed è più facile beccarti. Quindi benissimo, io sono, lo sai, culturalmente sono di quelli che pensa che nel mondo ultra ci siano anche dei valori, come in tutti i mondi della vita, come in tutti i gruppi umani ci sono sicuramente cose buone e cose meno buone, c'è anche della socializzazione che spesso è solidale, e comunque sia esistono, per cui non è che puoi dire far finta di niente, esistono, sono dei luoghi di aggregazione che può essere anche un'aggregazione positiva, per cui prendiamoci la parte positiva e vediamo che succederà a questo punto. Era anche la mia ultima domanda, adesso prossimo step quale dovrebbe essere, Paolo? Intanto ora vediamo l'iter parlamentare. Io voglio ricordare che sulla tessera del tifoso il Daspo, il Parlamento nell'agosto 2014 ha già recepito un lavoro che è stato fatto tramite gli avvocati Contucci e Adami e alcune proposte che dal mondo delle curve sono venute. Voglio ricordare che anche sulla tessera del tifoso, argomento di battaglia in tanti anni, soprattutto a Roma, alcune cose sono cambiate. Cioè, attenzione che poi il dialogo è una cosa che produce anche dei risultati. Ora a Roma c'è questa vicenda della divisione delle curve, di un atteggiamento a mio avviso assolutamente incomprensibile nei confronti delle curve di questa città, su cui io mi auguro che finalmente si possa trovare una soluzione. Cioè, io sono convinto che il problema vero è riportare le persone allo stadio, e dentro, e questa è la sfida, e allora dobbiamo intorno a un tavolo, il Parlamento che fa le leggi, perché questa è la ragione per cui poi quella delegazione, non in maniera facile, non vi pensate che anche nel mondo delle curve questa scelta, no, certo, ma io non sono convinto che la gente non vada allo stadio, i bambini non vadano allo stadio, a parte che quando mai ci sono andati ricordo appunto negli anni 70, 80, 90 che era un luogo estremamente pericoloso, non credo che non vadano per paura di violenza, no, non vanno perché oggi andare allo stadio è la cosa più complicata per esatto, e su questo sono perfettamente d'accordo, tanto che la tessera dei tifosi è stata una delle peggiori idee che siano state partorite negli ultimi anni. Essere utile per sistemare o quantomeno provare a sistemare alcune delle situazioni più calde che viviamo nel nostro calcio. Fra pochi giorni ci sarà Roma-Napoli, tanto per fare un esempio. Cioè, questo tipo di iniziativa che viene dal mondo ultra ha questa possibilità, per questo anche sarebbe un passo avanti molto importante, no? Nel momento nel quale ci si mette attorno a un tavolo, però si deve avere per me la buona volontà da parte di tutti, no? Io mi auguro che ovviamente il fatto che ci sia un dialogo tra le tifoserie, almeno sui problemi che loro vivono dal punto di vista dell'agibilità delle curve, possa facilitare il confronto. Poi sappiamo che nessuno può parlare al nome del mondo delle curve, perché è un mondo complesso che va su cui ci si può confrontare, ma ne va anche rispettata l'autonomia, i tempi, le discussioni. Io credo che una cosa va detta e va affermata, ieri è emerso che oggi la crisi del calcio è una crisi che riguarda tutti, riguarda i vertici delle società, i dirigenti, i giocatori, riguarda anche i tifosi organizzati, anche i tifosi delle curve. Lo vogliamo salvare sto pallone, che poi oltre agli interessi economici è anche una grande passione popolare? Io credo che ognuno deve dare un contributo, lo devono dare i tifosi, anche quelli delle curve ovviamente, lo dobbiamo dare noi che siamo a metà, quelli come me, tra l'essere tifosi ed avere un impegno pubblico, in alcuni casi anche per altri colleghi che sono ancora in Parlamento legislativo, lo deve fare l'informazione. A me pare che ci sono i segnali di un qualcosa di positivo che si può muovere. Io credo che il muro contro muro, ma soprattutto il trattare il tifoso di curva come un cittadino di serie B, non aiuta nessuno, e peraltro è anche sbagliato dal punto di vista nessuno ha l'intenzione ieri, di nessuno vuole ieri farlo. C'è stato nessuno un fatto. Io non mi soffermerei sulla natura, ripeto, se dovessimo fare l'analisi delle fedine parlerebbe più nessuno, o in Parlamento ci entrerebbero molto pochi. Io prendo la parte positiva, che anche persone che hanno interpretato il tifo in modo, anche con episodi assolutamente condannabili, sono venuti lì a confrontarsi con le istituzioni. Io guardo questo come un dato importante. Ne rispettiamo le proposte, poi le proposte non è che sono prese a approvare, le proposte sono oggetto di una discussione nelle commissioni parlamentari, cioè devono essere tradotte in un disegno di legge da parte di parlamentari, quindi eletti dai cittadini. Però non capisco perché in questo paese tutti parlano con tutti, se si parla con i tifosi delle curve diventa uno scandalo. No, io rivendico anche il diritto. No, io non sono d'accordo, perché no, devono domandarmi da quale legittimazione arrivi questo dialogo, e se quello soprattutto possa essere il luogo adatto. Comunque torniamo a parlarne volentieri. No, e poi c'è anche un discorso, se vuoi, di rappresentatività, diciamo, di tifoso che non è un tra, no? Cioè, poi esistono anche, e chiaramente è più difficile metterli insieme come gruppo comune, come lobby, se mi passi questa espressione, no? E poi c'è una maggioranza decisamente silenziosa di persone che sono, che vanno allo stadio e che vogliono semplicemente vedere la partita in un tipo di situazione tranquilla. Però io voglio cogliere veramente il senso positivo, perché poi alla fine, come dicevo prima, non è che questo sia il migliore mondo possibile. Questo è il mondo nel quale viviamo, e i miglioramenti si ottengono in qualunque modo si ottengano, è importante che vengano fatti. È chiaro che i gruppi ultra sono cittadini dello stadio, sono abitanti dello stadio, e quindi se realmente da parte loro sono cittadini di questo paese, oltre assolutamente ci mancherebbe. Però voglio dire che poi c'è una... no certo, però voglio dire, sono chiaramente dei soggetti che partecipano alle domeniche all'interno degli stadi, e quindi è chiaro che se veramente questo contributo è costruttivo, come mi auguro che sia, perché non tenerne conto? Questo non ci sono assolutamente dubbi. Grazie Paolo Cento, ci sentiamo presto. Grazie. Ci sentiamo invece subito dopo la borsa, e poi parleremo, oltre che con gli ascoltatori, a cominciare da Giuseppe e Mirko, anche di una Champions League almeno sorprendente, se volete. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Si ricomincia. Tutti convocati. Fernandinho, e parte Agüero da una parte, De Bruyne dall'altra. Fernandinho cerca De Bruyne, attenzione, controllo tutto solo, rete, il City è in vantaggio, Kevin De Bruyne colpisce lui, 1-0. Attenzione, gran pasticcio, rete, Ibra, gran pasticcio, Fernando si è lasciato anticipare nello scambio col Hart, Ibrahimovic, nel rimpallo trova il gol incredibile. Di Maria, calcio d'angolo, mucchio in area di rigore, Paticross, Cavalli gira, pallone rimane lì, rete, Rabiot, 2-1, il colpo di testa di Cavani, il miracolo di Hart, Rabiot, ecco Sagna, bal cross basso, ci arriva Riebba, attenzione, pallone rimane lì, e c'è il gol, il pareggio del Manchester City a freddo con Fernandinho. Abbiamo notato una cosa, che fra Ibrahimovic e Cavani, lo sottolineavo prima, non è che si cercano così volentieri. A noi pare un po' questo. No, non si cercano. Ah, ecco. È difficile, perché guarda che non lo sappiamo tutti che Cavani preferisco a giocare centravanti, però non è che gioca centravanti anche in selezione e fa i gol lo stesso. Questa sera ha avuto anche l'opportunità di fare gol. Professor Piccinini, pardon, non mi è sembrato particolarmente entusiasta del 2-2 del Manchester City, mi sa che come noi ti fa Paris Saint Germain. Sì, beh, io non tifo niente, sarei felice per Ibra. Appunto, Ibra, sì, Verratti. Sarei felice, anche se poi ieri è stato veramente croce e delizia, e sicuramente, insomma, stiamo parlando di una possibile nuova pagina della saga dell'Ibra incapace in Champions di essere se stesso, no? È chiaro che se dovesse uscire sarebbe l'ennesimo indizio a favore di chi lo considera un giocatore che in Champions non riesce a fare quello che invece fa in campionato. Ma sono ancora fiducioso, dai. Sono ancora fiducioso in vista del ritorno. Beh, non è semplicissimo, Non è semplicissimo. Beh, però questi sono talmente fragili. Cioè, possono fare il grande risultato, ma possono anche sciogliersi facilmente. Chiaro che non è facile, chiaro che no, 2-2 però io non mi aspettavo che si facesse il risultato a Parigi, francamente. No, io nemmeno. Perché penso che il Paris Saint-Germain abbia qualcosa in più, e perché pensavo che fosse un pochino più maturo. E ieri invece è stato abbastanza distratto, abbastanza sciupone. Non l'ha affrontata, secondo me, non è riuscito a essere cinico come avrebbe dovuto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo mettere in evidenza il comportamento antisportivo di Felice, visto che non viene mai sottolineato. Anche di chi? Di Felice, il difensore dell'Udinese. Sto parlando del caso Higuain. Sì. Che secondo me andrebbe sanzionato in modo pari o addirittura superiore a quello che dico, perché da lui poi è nata tutta la questione. Se questa reazione c'è stata per un comportamento francamente antisportivo di un giocatore che per un calcetto, quasi una carezza, sembrava travolto da un treno, in pratica addirittura come se dovesse venire un'ambulanza per risollevarlo. Allora questi comportamenti anche di simulazioni sanzionati, sì, ma vengono sanzionati. Poi parliamo anche di simulazioni, glielo prometto, sì, che è un altro argomento che voglio trattare. Però adesso dire che è colpa di questo, di quello, di quell'altro, della Juventus, di Ibrahimovic, di Tosella, di Cruciani, di chi vuoi tu, a me sembra eccessivo. Cioè del giornalista della Gazzetta, che giornalista della Gazzetta. ha fatto lo scoop. Mi sembra veramente. Mi sembra tanto. Poi cosa vuoi che ti dica? Ognuno ha le sue idee, se le tiene. No, è un trappolone psicologico. Cioè, Higuain ha dimostrato di essere nervoso, ma tutto il Napoli era nervoso l'altro giorno. Certo. E questo, voglio dire, è un dato di fatto. Non è un peccato mortale, però è una cosa che va sottolineata, cioè anche rispetto alle altre partite. Il Napoli spesso aveva rimontato da situazioni di svantaggio da subito, era successo col Sassuolo, col Genoa, recentemente anche col Chievo. E a Udine invece questa serenità, questa tranquillità di una grande squadra che... Ma può capitare, eh? Che può succedere, può capitare, sta facendo una grande stagione. Appunto, io ribadisco quello capitare. Che ho detto ieri. Cioè io sarei veramente... Secondo me è veramente un peccato dal punto di vista della comunicazione del Napoli. Poi Grassani è giusto che faccia le sue battaglie. Ma certo, poi adesso c'è un gigantesco movimento mediatico. Di opinione. Cioè, hai sentito anche Raffaele Cantone stamattina da Minoli. Sì. Sinceramente, sentire parlare di un altro regalo alla Juve, anche se tra il Serie e il Faceto, mi sembra un po' tanto. Sono d'accordissimo e ribadisco che se c'è una partita della quale si può discutere è Toro-Juve. Perché Toro-Juve è stata secondo me la prima partita e l'unica situazione veramente eclatante di questo campionato, la partita che stava girando, al di là del fatto che la Juve ha dominato il primo tempo, però ci sono 2-3 episodi concentrati in quei 20 minuti che possono aver cambiato il corso degli eventi. Poi l'arbitro di quella partita ha sbagliato anche in alcune circostanze contro la Juve nel finale sul secondo giallo di Glick e sull'espulsione. Non dimentichiamo però che è il nome tutelare che viene invocato, Rizzoli naturalmente, il nome tutelare che viene invocato a garanzia di ogni grande partita, quindi sì. Lui è orzato adesso, sicuramente Rizzoli col Toro Juve ha sbagliato, ma tanto lo sappiamo anche lui, questo non toglie lo sappiamo tutti, che sia un grande arbitro. Ma detto questo la sostanza è che a me da comunicatore mi viene da pensare che se il Napoli esagera, secondo me un conto è farsi sentire, no? Come si dice in gergo, è fare il ricorso, prepararlo bene, un conto è trasformare adesso questa stagione in una recriminazione che finisce per offuscare, no, ma per parzialmente offuscare la stagione meravigliosa del Napoli. Ieri, se tutto questo, lo strascico di tutto questo dovrebbe essere la conseguenza, dovesse essere un Napoli che perde un secondo posto che ha strameritato, sarebbe un peccato mortale, ma anche non solo per il danno economico eccetera, ma anche per la crescita di questa squadra. C'è già Filippo Maria Ricci in linea, però prima Mirko Davarese, poi traffico e poi parliamo delle regioni di Spagna. Mirko. Buongiorno ragazzi, complimenti. Grazie. Seguo sempre per la vostra professionalità. Una cosa che vi voglio dire, adesso io sono un tifoso milanista, stiamo facendo una petizione, senso simbolico, ovviamente senza nulla, senza voler andare in Parlamento. Non sono un ultra, con tutto rispetto per gli ultra milanesi, ovviamente, perché abbiamo in mente di portare questa cosa a Milanello e far vedere a noi tifosi la nostra linea nuova del Milan, del nostro futuro che ci piacerebbe vedere. Quindi direttore sportivo Sabatini, in primis presidente Barbara, che secondo me, a parte le piccole cose che sono successe col giocatore compatto, quant'altro, secondo noi rimane un ottimo. Poi ce ne sono state delle altre che non sono state così piccole, okay, ma comunque, come va bene, comunque Presidente Barbara, poi direttore sportivo Sabatini. Direttore sportivo Sabatini, settore giovanile Paolo Maldini e Alessandro Nesta. Loro due devono essere le persone che devono girare il mondo e cominciare a trovare i nuovi. Questo dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del lavoro, Filippo Galli sta facendo un lavoro straordinario. Se poi vogliamo parlare di immagine, allora parliamo di immagine e portiamo pure chiaramente Paolo Maldini, poi vediamo il ruolo, Paolo e portiamo Maldini pure Nesta. Però, è un bellissimo tema Paolo Maldini ed è chiaramente una figura di carisma estremo e può essere quello che è a Vietranetti per l'Inter, cioè un giocatore straordinario, internazionale, no, questo senz'altro. Su Sabatini non ci sono grandi discussioni, anche se Sabatini è certamente uomo abituato e forse proprio questo ci potrebbe essere dietro un suo eventuale addio dalla Roma, abituato a lavorare con un certo margine di autonomia. In questi anni l'ha fatto molto bene, secondo me sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Poi gli errori li ha fatti anche lui, Dumbia, è stato un errore, certamente. Ne ha fatti però, diversi, ma non è uno yes man. Però e quindi è anche, non è so anche se... l'uomo che ha fatto plusvalenze clamorose tra Marquinhos, Benatia, Lamela, quindi insomma... però appunto bisogna capire come si riesce a inserire in questo tipo di organigramma, perché sappiamo che è un grandissimo talent scout e forse avrebbe bisogno, quello che un pochino gli può essere mancato alla Roma, di una figura altrettanto forte che invece si occupi di un ministero degli interni, ecco, lui certo. È il ministero degli esteri, uno che va a cercare i giocatori fuori. E che è il numero uno da questo punto di vista, forse in cosa certo che al Milan manca da un po' di tempo. Esatto. Pier, ci fermiamo un attimo, poi c'è cioè, Filippo già in linea che sta aspettando. Tutti convocati. Tutti convocati. Il signor Ricci chiamato agli straordinari. Ciao Filippo. D'altra buon parte, pomeriggio. Le regine di Spagna, quando le regine di Spagna giocano un turno di Champions come questo, non possiamo che discuterne, no? Beh, ieri, grossa sorpresa. Adieu, bellissimo, Zizou. Dice. È il titolo Adieu Zizou è il titolo di oggi? No, ancora no, dai. Adesso oggi siamo adesso per una settimana ci spasceranno i cabasisi qua locali con remontada, la epica, lo spirito di Juanito, che la cosa più bella è questa che ieri il figlio del povero Juanito ha twittato: lasciate stare in pace la memoria di mio padre. E ormai ci si aggrappa a quelle cose lì, perché il Real Madrid, visto ieri sera, è stato qualcosa. Io non lo so se voi, se tu e Pardo avete visto o ricordate in tempi recenti un'edizione così deprimente del Real. Pardo. Beh sì, guarda, io l'ho visto, qua è uscito per 6 anni di fila agli ottavi, Occhio, la gente l'ha dimenticato. No, cioè, vabbè, lasciando stare le manite, classico, parlo sul fronte internazionale. Sto parlando sul fronte internazionale. Ultimamente ne ha avute di rovesci. Certo, quello ieri fa impressione perché non se lo aspettava nessuno, il Wolfsburg era in una depressione assoluta, il Real Madrid veniva dall'euforia di aver vinto il classico, la prima pagina dell'Equipe, che sinceramente forse oggi rimpiangono un po' l'altro giorno, no? Tutta su Zidane, però... No, e poi è stato il modo di perdere pesce, insomma. Cefalogramma piatto. A me ha ricordato Monaco Real del 2004, se devo farti un esempio, il primo esempio mi viene in mente, 3-1 clamorosamente a sorpresa contro una squadra che pariva ventina di Champions League. Con Morientes prestato. Con Morientes, con Evra, con un sacco di facce conosciute, di amici, però insomma con De Champ in panchina. È abbastanza sorprendente anche perché insomma Real era uscito benissimo dal classico, aveva cominciato un cammino virtuoso che poi il classico ha trasformato in qualcosa di più importante, di più significativo, quindi sembrava veramente che ci fosse un vento molto buono, e questa però è una partita che spariglia tutto, perché chiaramente questa partita può significare un'eliminazione. Che il Real possa uscire nei quarti di Champions già ci sta poco, ma che possa uscire così contro un outsider come il Wolfsburg sarebbe veramente le conseguenze di danno. Cioè io dico a Diezi su aspettiamo una settimana, perché secondo me le conseguenze potrebbero essere tremende per Zidane, è chiaro, cioè, perché noi l'avevamo già detto a suo tempo, un po' più o meno l'accordo per salvare la panchina era un cammino dignitoso in Champions League, cioè, la vittoria ovviamente è però anche un'uscita appunto in semifinale contro una grande squadra, ci poteva stare, ha vinto il classico, c'era la trappola del classico, l'ha saltata bene, adesso è di nuovo ovviamente in discussione. Insomma, ecco, ma qualcuno viene in mente che questa sia una squadra sbagliata oppure no? O, o è solo una lunga sequenza di allenatori sbagliati come quelli che passano da Palermo? Eh beh, detto, siamo a tre in un anno, insomma, che non ci capiscono niente. Poi c'è gente che è di poco valore come Ancelotti o Benitez, no? E, no, è chiaro che viene in mente ed è chiaro che se ne parla, però il presidente è questo, è il presidente inamovibile, si punta sempre sull'allenatore. Il padre degli errori è aver mandato via Ancelotti, non lo dico per amicizia, sì, ma lo dico perché è una verità talmente lampante. Ancelotti in queste situazioni di squadre costruite male, di squadre costruite per il numero uno assoluto, è il numero uno assoluto, perché è quello che aggiusta, è proprio l'aggiustatore, no? È l'uomo molto emiliano, di grande buonsenso, di grande praticità, che sa come comportarsi, e di fondo quando ha vinto la decima l'ha vinta grazie a un compromesso tattico enorme con Di Maria a centrocampo, Di Maria, esatto, sì, cioè, quindi, però Di Maria a centrocampo e quel tipo di modulo così spregiudicato lo puoi fare soltanto se i giocatori ti amano la follia. E anche perché c'era Xabi Alonso, bisogna sempre ricordarlo. Certo. Cioè, ieri sera, per esempio, toccava uno come lui con una visione, no? Uno capace di governare un po' la partita. Il povero Casemiro adesso è diventato, capito, il nuovo Machelele, no? Cioè, ieri è naufragato anche lui, ma cosa deve fare? Insomma, ha finito con tutti attaccanti, no? E Casemiro lì non troppo prendono il terzo gol, perché giocavano, a quel punto sono entrati Isco, James, Jesse, la BBC, insomma, voglio dire. Mi sembra senza arte ne pare. Io vedo male, cioè, ne esce abbastanza male Zidane anche dal punto di vista uno tattico, perché comunque non è riuscito, diciamo, a fare nulla. Danilo sbandava, l'unico che un po' faceva qualcosa era Bale e non sono riusciti a usarlo di più. I cambi approssimati, Benzema infortunato in campo 22 minuti con un ginocchio che gli faceva male, chissà adesso no, mi sa aspettare anche questo, chissà come se è una cosa da niente o no. Cioè, lo stesso Zidane esce molto male da questa partita. D'altra parte comunque, Filippo, non è neanche il primo dei grandi ex giocatori ad uscire con le ossa rotte da una prima esperienza più grande di lui. Si aggiunge la lunga lista di quelli che sono usciti. Ricci dice tutte queste cose perché mi vuole far fare il doublete la settimana prossima. Sì. Farò Atletico Madrid-Barcellona. Martedì abbiamo il Binitari, quindi a questo punto devo scegliere tra Ricci e Genta. Tra Real Madrid, Wolfsburgo e il Binitali, dai. Wolfsburgo. La possibile caduta del Real Madrid sarebbe... No, ma la guardo, C'è la televisione a Verona, vuoi mettere al Bernabeu che la tragedia. Vabbè, Pardo, scegli tu, sappi che se vai là non ti parlo più, okay? No, scegli, no, scegli tra me e Ricci. Ho già scelto il Vinitali, molto quindi tutti senza condizionamenti, quindi no, più che altro i giudizi che noi daremo mercoledì su Real Wolfsburg e anche su City Paris Saint Germain ovviamente saranno così, in qualche modo condizionati dall'alcol e dal Vinitali, questo è giusto sapere, perché se mercoledì ci sentirete dire cose poco lucide, tipo la grande partita di Camacho, sapete perché, Santillana, come quanto mi è piaciuto Santillana sulla faccia, ecco. Va bene, quindi sappi Filippo che Pardo me lo tengo. Intanto vi saluto. Pardo me lo tengo, ci sentiamo, ti chiamiamo da là. Insomma, se senti delle voci un po' disturbate, sappi che è per le ragioni. Allora, io cercherò di essere alla vostra altezza. Bravo, cerca di essere alla nostra altezza. Saluta il professor Cabras, che mi ha appena scritto il Corriere dello Sport. Salutiamo. Ti saluta il professor Zetta. Noi domani poi facciamo doppietta, facciamo il doblete domani, lo ricordiamo, facciamo doblete perché siamo qui dalle 14 alle 15.30 come ogni giorno, ma poi live a International Radio City Milano, piazza Gaia Aulenti, sentite come lo dico bene, ieri mi hanno accusato di aver detto Gaia, ma pensa un po', chissà, meno male non mi hanno accusato di aver detto altre cose, comunque qualche vecchia fidanzata, sì, come no. 20 dalle 18.30 alle 20, tutti convocati dal sottoscritto e da Pierluigi Pardo, presenti fisicamente lì, puntata live specialissima di tutti i convocati. Ti abbraccio, Pier, ti aspetto domani. Ciao. Invece a voi, vi aspetto voi subito dopo Giornale Radio perché ci divertiamo un po'. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Radio 24 Day. Nuovo appuntamento con il Radio Day di Radio 24 sui temi del lavoro. Il ruolo sempre più cruciale delle regioni nel mercato del lavoro e nell'organizzazione dei centri per l'impiego. Ne abbiamo parlato con l'assessore al lavoro della Regione Lazio, Lucia Valente. Le regioni sono deputate in questo momento a gestire la transizione e il cambiamento. Siamo in prima linea per garantire l'evoluzione dei servizi per il lavoro in un momento in cui la Costituzione sta cambiando, il percorso è ancora in itinere, ma noi siamo diventati i protagonisti di questa vicenda dopo l'abolizione delle province. Abbiamo una responsabilità enorme e stiamo interpretando questo ruolo fino in fondo. Nel concreto, come state cooperando con il governo? Stiamo garantendo al governo la successione dalle regioni all'ANPAL, che è la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro. Ci stiamo preparando affinché dal giorno dopo dell'insediamento dell'ANPAL le regioni si facciano trovare già pronte e con una parte del lavoro già fatto. Guardando in avanti, quali altre iniziative da oggi in poi? Noi abbiamo da attuare tutto il piano delle politiche attive per gli adulti, dobbiamo fare la stessa identica cosa di Garanzia Giovani per gli adulti. Adesso lo stiamo facendo, ma in modo parcellizzato perché usiamo i fondi comunitari. Dobbiamo arrivare a fare la stessa identica cosa, tutti assistiti, come avviene in sanità. In sanità chi si fa male e va in ospedale all'assistenza, la stessa cosa deve avvenire per i disoccupati. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi con il Radio Day sui temi del lavoro. Convocati. Allora, oggi abbiamo affondato le mani fino al gomito nelle incerte miserie del calcio, e lo sapete bene. 800240024 per intervenire, magari parlarne, ma intanto ieri sul Corriere della sera di ieri, mercoledì 6 aprile, c'era un meraviglioso commento di Cristiano Gatti con il titolo: vai in area e buttati, prima o poi l'arbitro fischia. Ciao Cristiano. Ciao Carlo, e ciao a tutti ovviamente. Hai provato a spiegare come la simulazione alla fine in ogni settore della vita, non solo del calcio, è parte di noi. Io mi sono quasi convinto che servirebbe un articolo della Costituzione da riformare, magari ci pensano gli ultra e vanno in Parlamento e chiedono la riforma della Costituzione, possiamo vedere anche questa. L'Italia è una repubblica fondata anche su, diciamoci la verità, sulla furbizia. Sì, sì, è una nostra grande prerogativa, forse il più autentico made in Italy. Infatti quello, lo spirito infatti di questo articolo che corre da un'inchiesta che ha avviato il Corriere sui grandi e piccoli simulatori del campionato. Partendo. Dove siamo quasi imbattibili, no? Sì, siamo da Champions, proprio non siamo davanti a tutti, anche nel ranking della furbizia abbiamo distanziato tutti. E tant'è vero che poi gli stessi nostri i colleghi hanno intervistato colleghi allenatori che lavorano in Inghilterra, per esempio, dove dicono che non hanno mai visto. Guido Lim confessava che, vabbè, non è lì da molto, ma che finora non gli è mai capitato di vedere né un solo giocatore né un avversario buttarsi, anzi per loro è una vergogna quando uno si butta e il pubblico è il primo a fischiare quando uno finge. È una diversità di mentalità. In questo articolo non me la prendevo tanto con il calcio, perché come appunto dicevi tu, penso che sia l'espressione del nostro modo di essere. Il calcio non è nulla di estraneo, non è un corpo che vive a sé. sì. Noi simuliamo e niente, poi tra l'altro io manifesto anche un certo pessimismo, perché tutti si dice no, bisogna ristabilire il fair play, il senso di correttezza. Io sinceramente non ho la minima fiducia che i nostri bambini siamo in due. Anche perché al contrario degli inglesi, se noi vediamo un nostro giocatore che non cerca furbescamente un vantaggio, ci incazziamo pure. Sì, no, cominciamo a dire no, questo è ingenuo, non è un giocatore, deve ancora farsi, non ha la necessaria esperienza. Noi siamo quelli che già nei pulcini, appunto, come poi riproponeva il titolo, sì. Vai in aria e buttati, no, prima o poi si scarica. Poi se c'è il bambino che non si butta, l'allenatore convoca il genitore, dice questo bambino qui non capisce, non si butta, va in area e non si butta. E poi è chiaro che io ho allargato un po' il discorso dicendo che la simulazione fa parte di noi, il paradosso è anche che forse simuliamo anche quando diciamo di essere contro la simulazione, sì. Mi sembra la simulazione più questa più è stata raffinata. La tua chiusura, simuliamo anche quando dichiariamo di essere contro la simulazione, ma perché è vero. C'è un ascoltatore molto simpatico che mi scrive che ad esempio io simulo bene di avere un cervello, lo ringrazio perché simulo bene, sì. Ce la metto tutta per simulare di avere un cervello. Va anche detto, Cristiano, lasciami spezzare. Devo dire che lui non simula per niente il rispetto e la tolleranza. Comunque. Ma no, ma va benissimo. Prendiamo e mettiamo in saccoccia. Ma ci mancherebbe. No, piuttosto volevo spezzare una lancia, non mi viene in mente un termine più divertente. Per i nostri, perché io trovo che il più odioso simulatore di tutti abbia la maglia del Barcellona, si chiami Neymar, non un a caso. Poi avrai visto cosa ha fatto Marcelo ieri in Germania. Sì. Beh, ecco, anche loro sono abbastanza bravini. Non vorrei farne una questione, diciamo, etnica, antropologica, però direi che infatti noi non ci dobbiamo sentire mosche bianche, siamo in ottima compagnia. Direi che la prerogativa però, diciamo che questa pandemia riguarda soprattutto i popoli latini o neolatini, insomma, come si dice. Diciamo che per l'amor di Dio non mancano i simulatori neanche nelle regioni nordiche del pianeta, però tendenzialmente è più da latini, dell'emisfero di formazione, di cultura, di mentalità latina. C'è chi scrive, devo dire che io non ho nessuna fiducia. Purtroppo qui bisognerebbe anche uscire un po' dalle chiacchiere, come si dice, dalla poesia romantica, dire ah no, cambiare la cultura, sperare, dobbiamo aiutare l'arbitro con atteggiamenti corretti, i giocatori finché ci sarà la furbizia nei comportamenti umani non cambieranno mai. Gli arbitri bisognerebbe che imparassero ad aiutarsi da soli, nel senso che per esempio c'è uno strumento formidabile che potrebbe aiutarli, che è la moviola a bordo campo. A loro esclusivo utilizzo, loro possono riguardarsi l'azione e decidere se sono stati truffati o no da giocatore che è caduto in area. È una cosa che servirebbe a loro, un aiuto che servirebbe a loro. Io non ci faccio proprio per niente conto sull'idea che i giocatori improvvisamente o comunque entrino in area, anzi cerchino in tutti i modi di stare in piedi. Proprio non ce li vedo, soprattutto i giocatori. Io ce li vedo andare giù, prendere qualcosa che arriva e abbracciare. E poi magari fare un po' di polemica. C'è chi scrive: per ogni simulazione un punto di penalità molto semplice. Questa è una proposta piuttosto dura. Oppure anche mia moglie simula, ho qualche dubbio. Giorgio da Como. Se ha dei dubbi, comunque se gioca simula bene. Sì. Come simula di avere un cervello. È chiaro che il simulatore va castigato, ma il problema è all'origine, che bisogna capire quando c'è la simulazione, perché oramai il messaggio che il simulatore vada castigato è passato, mi pare, perché le norme vigenti, come si dice, prevedono il castigo del simulatore. Il problema però è individuarlo. E qui secondo me veramente se non si arriva a 6 arbitri abbiamo capito che non bastano. Nel caso prendiamo l'ultimo successo, quello di Belotti del Torino, è chiaro che se l'arbitro ha la possibilità di in privato, senza che non si veda sul mazzo esterno, ma di rivedersi l'azione, è chiaro che si può fare un'idea più veritiera. Allora, tu lo sai, che conosci bene, io la pelle d'oca l'idea di vedere delle televisioni in campo, però in questo modo si avrebbe la certezza del diritto. Cioè, chi scrive il problema non è la simulazione, ma sa per simulare e simuliamo anche, no, ne parlavo prima e volevo una tua opinione, parliamo prima, simuliamo anche indignazione verso gli ultra e poi li invitano in Senato. Ne abbiamo parlato prima con Paolo Cento, ho spiegato che non sono molto d'accordo sull'iniziativa, non mi piace per niente vedere questa gente nel cuore dello Stato, nemmeno se vanno a presentare una proposta di legge in cui tra l'altro chiedono che non vengano più puniti i razzi, che le barriere spariscano dalle curve, perché in ufficio così si lavora meglio. Carlo, ti stai addentrando nel terreno minato della contiguità di una certa politica e di un certo tifo, che è un vero problema. Uh-huh. Per contiguità intendo, ci sono politici più o meno eminenti, più o meno noti, che sono affini o comunque partecipi del mondo ultra. Uh-huh. Lo usano per fini politici, partecipano anche per una evidente, primordiale passione sportiva, ma di fatto è un problema la contiguità di certa politica con un certo tifo, e credo che sia anche un po' alla radice di tanti problemi, perché quando l'idea che la politica non abbia mai manifestato una ferma volontà di stroncare il fenomeno del tifo violento, dipende anche da questo, perché chi fa le regole, chi fa le leggi, chi bada all'ordine pubblico, c'è qualcuno a cui conviene, dai Cristiano. Bravo, ecco, c'è qualcuno a cui conviene quest'idea, sì. Senti, rispondiamo a Michele da Milano insieme. Buongiorno Michele. Buongiorno, senta, io... Lei è un simulatore? Dica la verità. No, assolutamente. Non simula niente nella vita, mai? No. Io oggi sono simulatore. Però grazie per avermi convocato, prima di tutto. A lei. Allora, io per quanto riguarda gli ultra, io sono d'accordo con lei che assolutamente, altro che mandarli in Senato, saprei io dove mandarli. Però io volevo fare un'altra riflessione, sì? E volevo essere un attimino polemico con voi, nel senso che... Lei, prendo spunto da Vespa ieri sera, perché poi stamattina il vostro collega Giannino alla radio ha fatto una riflessione che secondo me è giustissima, e vorrei riportarla a quando voi fate dei commenti vorrei chiarire che io non sono un tipo del Napoli, sono un milanista, per cui ieri sera praticamente il figlio del più grande mafioso di Tito Torina è stato intervistato da Vespa. A domanda di Vespa se in Sicilia c'è la mafia, ha detto che lui non si è accorto di niente, non sapeva niente. E se c'era Dormivo, ecco, al che Giannino stamattina ha fatto una riflessione e dice: vabbè, se paghiamo il canone che tu fai informazione, quando lui ha sostenuto una cosa così, tu minimo gli dovevi rispondere: oh, bello, ma tu sei il figlio del più grande mafioso di tutti i tempi. Invece lui ha glissato, ha fatto finta di niente. Allora qua la polemica che non volevo fare è nei vostri confronti, nel senso che quando ragionate di Juve, di Napoli, di rigori dati, non dati, secondo me non prendete mai una posizione, va bene? Nel senso che tipo domenica Pardo sosteneva che il Higuaín era nervoso, secondo me assolutamente non l'ha neanche toccato. Higuaín era nervoso, l'arbitro l'ha toccato, la posizione le prendiamo, ognuno si tiene alle sue e ne risponde. Io su quanto dovevo dire su Higuaín l'ho detto, ovviamente scattata la scontata interrogazione parlamentare, arriverà la pagnolada, arriveranno i sit-in, arriveranno tutte queste cose. Secondo me 4 era il prezzo giusto, ma anche se non è stato scritto nel referto, soprattutto per quello che Higuaín ha fatto dopo che è stato espulso, c'è voluta praticamente la forza dell'ordine per mandarlo fuori dal campo. Cristiano? Ma io dico che il problema è che ormai è Bonucci, cioè concentrarci su Higuaín a me sembra veramente stupido, perché Higuaín ha fatto una cosa molto molto grave, credo che sia il primo a rendersene conto, e ha avuto il giusto. Il problema è che poi tutto questo serve per dire: allora perché Bonucci no? Allora ragioniamo di Bonucci e diciamo che Rizzoli anche per esempio ha sbagliato, perché comunque Bonucci, stare poi a dire a quanti millimetri è passato con la fronte, comunque anche Bonucci ha avuto un atteggiamento abbastanza aggressivo, poi le norme sono stupide, sono ottuse, il contatto, non il contatto, però era evidente a tutti che Bonucci ha tenuto un comportamento che non va tenuto con l'arbitro, ok, perché è andato con la testa forse un millimetro, forse contatto, cambia poco. Per cui diciamo tutti, gridiamo tutti che Bonucci andava sanzionato, ma questo non è che inficia poi la domenica di Higuaín, o comunque in qualche modo la Alessia. No, Higuaín ha fatto una cosa terribile per un giocatore del suo livello, che tra l'altro a me piace tantissimo, lo considero il migliore centravanti del mondo, ma questo non c'entra. Ha fatto una domenica di follia e l'ha pagata. Come va pagata una domenica di follia? Diverso il discorso di Bonucci, che in effetti andava sanzionato, certo non con quattro giornate, con un cartellino rosso e non con un cartellino giallo. Esatto, sì. Però da lì a parlare di disegni oscuri, secondo me ce ne passa. E poi però, scusi, l'ultima cosa che ti chiedo, poi leggo, simuliamo anche che ci vada bene, che Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dica un altro regalo alla Juventus, seppure sorridendo, e poi dica ma due giornate andavano bene, meritava al massimo due turni, il Napoli deve riaverlo contro la Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Carlo, il bello e il brutto in certi casi del tifo è questo, che anche le personalità più integerime, più ferme, e a un certo punto, siccome come si dice, il tifo è comunque una passione forte, è chiaro che a parte che Cantone, vabbè, se non altro aveva assunto un tono anche ironico, esatto, però voglio dire, davvero, quando subentra l'affetto, l'amore per una squadra, a questo punto tutti perdono la testa, perché come in tutti i sentimenti forti si perde la testa, si perde l'equilibrio. Allora ciascuno poi deve decidere se esaminare, se parlare di calcio, dei singoli episodi con i filtri del suo amore, per cui anche la nostra fidanzata Racchia è la più bella del mondo, oppure sforzarsi per una volta di levare sul singolo episodio i nostri occhiali e vederli oggettivamente per quello che sono. È molto difficile. La passione, per fortuna, obnubila. Perché quegli occhiali sono così colorati, Cristiano, esatto, Gatti. Senti, esatto, buona simulazione, ti saluto. Un abbraccio. Ciao Carlo, grazie. Ciao Cristiano Gatti. Claudio, provincia di Roma, buongiorno. No, a parte non sono di provincia di Roma, ma sono della provincia di Verona. Ah, mi scrivono Roma, io leggo Roma. Hanno sbagliato. Comunque io volevo chiedervi una cosa, ma gli ultras vi hanno violato da piccoli che ce l'avete con gli ultras? Perché volevo dirle una cosa. Sì, dica. Lei si è tanto scandalizzato perché è andato una rappresentanza, certo, di ultras, e lo sono tuttora. Quando parlate del Boccia, lo prendete come un delinquente, non sapendo neanche cosa possa aver fatto di bene il Boccia. No. Perché voi sono 20 anni che vi riempite la bocca della parola. La lascio finire, ha già parlato e se vuole mi risponde. Io sono e sono sempre stato per il tifo disorganizzato. Questa è la mia opinione. Ok? E se vuole mi risponda, perché per carità. Nella sua trasmissione ha accolto anche gente che è stata condannata. Dov'è la sua coerenza? La sua coerenza dove sta? In che senso ha accolto gente? Sopra e vedrà che alla sua trasmissione lei ha invitato gente condannata. Io faccio il giornalista, Claudio. Parliamo di Antonio Conte, va bene, parliamo di Antonio Conte. Mi risulta che Antonio Conte non abbia mai spaccato la testa a nessuno, che non pretenda di utilizzare una parte del territorio italiano, che sono le curve, per spacciare droga, fare traffici illeciti, trasformare quella parte di Stato in una parte di Stato che non vuole essere controllata da nessuno. La bocca di cose che non va sapete. Non sappiamo niente. Vedere quella gente che sfila in Senato fa venire il voltastomaco. E questa opinione me la tengo. E ripeto, io sono per il tifo disorganizzato. Sono per quelli che vogliono andare allo stadio, prendono il biglietto senza troppe stronzate, tessere tifose, eccetera, eccetera, e ci vanno. E guai a chi li tocca. Grazie. Fatemi sentire una cosa. That's the eighth turnover by Oklahoma. Here's Ocheffu. Decides to go outside, and Archie Diacono gets the bounce. That is their fifth make from behind the arc. It's just unbelievable. I mean, We play for the ones who came before us, and we're just a complete team. We may not have the best players, but we play together, we stick together, and we play tough, and we play hard, and just Chris made an unbelievable shot. Allora, quello che avete sentito è la voce di un ragazzo molto giovane che si chiama Ryan Arcidiacono, ha 22 anni e per una notte è stato il giocatore di basket più famoso d'America. Oggi mi ha fatto quasi impressione vedere la foto di questo ragazzo che ha vinto il titolo con Villanova, titolo NCAA. Avete presente quello per cui Obama fa i pronostici? Tra l'altro in questa stagione non lo ha indovinato perché aveva pronosticato Kansas, invece Villanova vince e Ryan Arcidiacono è il miglior giocatore, most valuable player dell'intera Final Four NCAA. Ciao Attilio Caia. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ci dici quale messaggio ti ha inviato Arcidiacono? Beh, insomma, quello che è uscito, nel senso, io gli ho fatto un messaggio di congratulazioni perché ho avuto il piacere di stare due estati con lui e di apprezzarle veramente sotto il punto di vista tecnico che si è visto, ma lì soprattutto dal punto di vista personale, umano, di ragazzo con intelligenza superiore. Quindi gli ho inviato un messaggio dicendogli che ero contento, ho fatto il tifo per lui, complimenti, e lui mi ha risposto grazie e spero di e non vedo presto l'ora di giocare per la nazionale italiana. E questo è il punto, Attilio, ti immagini vedere questo giocatore in piena fase di maturazione, a parte che ha fatto i 4 anni di università e quindi già è un altro livello, è un giocatore onestamente strepitoso, visto così, te lo immagini con la maglia azzurra dei grandi? Beh, devo dire che quando ha iniziato il percorso 2 anni fa, lui ha fatto le ultime 2 estati con noi, dove un anno completa venendo anche in Cina, quindi un giocatore che finisce il suo ciclo di studi, finisce la sua stagione universitaria per prepararsi individualmente oppure per il futuro, viene in Italia, in Europa, sta 1 mese qua da noi, 1 mese estivo, vuol dire che è interessato, vuol dire che ha grande passione per la pallacanestro, per il gioco, e quindi questi brava la nostra federazione a scovarlo, a prendere tutte le informazioni possibili e fare tutto l'iter burocratico possibile perché possa prendere questo definitivo passaporto. Quando riportiamo Roma tra i grandi, Roma del basket? Insomma, ci vuole un po' di tempo dopo l'autoretrocessione. Obiettivamente sono state fatte delle certe valutazioni per le quali il presidente Toti ha fatto quelle, quindi adesso è un momento di assestamento e quindi anche nel futuro ci bisognerà piano piano ripartire, e poi dopo il tempo lo sa solo il presidente con qualcuno che riesca a trovarlo come sponsor a dare una mano. Ecco. Attilio, ti abbraccio, grazie. A voi, ciao. Buona giornata. Grazie ad Attilio Caia. Chiudiamo questo programma, domani ci sentiamo, ricordo tutto, rapido riassunto, ci sentiamo dalle 2 alle 3 e mezza per tutti i convocati, ovviamente, come ogni giorno. Poi ci trasferiamo tutti insieme, voi compresi, a International Radio City, vicino alla stazione Garibaldi, Milano, piazza Gaia Aulenti, dove avremo un evento speciale, tutti convocati live con un sacco di ospiti dalle 18.30 alle 20. Naturalmente siete tutti invitati, oltre che convocati. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Federico Binda in redazione. Ciao! Saluti!